Siamo da poi, sì, ciao, bella. Ti porto dove c'è musica, dove persone canta di mezzo radica. Sì, l'amore chino per sta musica, è giusta la giornata, ti porto dove c'è musica, dove persone canta di mezzo radica. Sì, l'amore chino per sta musica, è giusta la giornata, mi accompagna ancora. Ma è della musica che a me face cangiare, sì. A me mi piace con canto con l'amici mi ogni sera, sì, ogni strada muoio. Brave cammina, canto scascia, poi non muoio tu fa voi. Se non la sento, e poi mi manca sta musica vitale, rappresenta lo talento. Ogni sera, sì, ogni strada puoi. Musica che gira, sempre gira, non la lascio mai. Ti porto dove c'è musica, da vi persone canta di mezzo radica. Sì, l'amore chino per sta musica, è giusta la giornata, me mai. Ti porto dove c'è musica, da vi persone canta di mezzo radica. Sì, l'amore chino per sta musica, è giusta la giornata, me accompagna ancora. Ed è questa cadena senza lugore, libera musica, poi nel bagnone. Pronto questa radica, ribelle come a me, sta merda, amore, società. Pizza bombo tra, ci capiano il microfono a mano. C'è capace con me, la tosto fa il volo. Pizza bombo. C'è capace come nello fuoco, brucia, intanto danza brucia, te paro a mie. Ti porto dove c'è musica, da vi persone canta di mezza radica. Sì, l'amore chino per sta musica, è giusta la giornata, ti porto dove c'è musica, da vi persone canta di mezza radica. Sì, l'amore chino per sta musica, è giusta la giornata, mi accompagna ancora. Mena menti l'antona e senti, sto se non vado a porta con la silica chi pensieri. Te dico mena menti l'antona e senti, sta musica no, non la lasciare mai. E la musica che mi stimola, lo frequenta di mie, del corpo mio. La balla è come pecchino dell'energia, più veloce lo sangue dei movimenti che lo cuore batte, su vivo me la sorte mia. Ti porto dove c'è musica, da vi persone canta di mezza radica. Sì, l'amore chino per sta musica, è giusta la giornata, ti porto dove c'è musica, da vi persone canta di mezza radica. Sì, l'amore chino per sta musica, è giusta la giornata, mi accompagna ancora. Mi piace giro, torna dentro e fa con ballo. Giro, sono poi giro, tanto c'è con l'amica, mi sballo della gente, da frequenta sto posto incantato. Da balla con me stasera, quando senti cantare fare parole, frasi d'amore, verso desiderio, cuore, per tutte le scelte che lo meritano. Sono tu io, guarda accanto con l'acquario, perciò mi piace con bevi, così ne può durare.